in primo piano. Ed ecco la rassegna stampa. Mauro Meazzo, buongiorno. Buongiorno Irene, buongiorno a tutti. E parleremo noi di caporalato, c'è anche sui giornali questo tema oggi. Sì, perché la vicenda di cui facevi cenno prima è stata ripresa, c'è un impegno da parte del governo per parlare appunto, per intervenire contro il caporalato. Sul secolo XIX poi questo impegno diventa addirittura il titolo più importante della giornata. Lavoro nero, combattere gli schiavisti, è infatti l'apertura, il titolo di apertura del secolo XIX del quotidiano genovese, riferisce già dalla prima pagina il quotidiano. Dopo il caso della bracciante stroncata in Puglia da un malore, il ministro Martina chiede massima mobilitazione. Chi conosce situazioni irregolari le denunci senza esitazione. Il caporalato, sono ancora parole del ministro, va combattuto come la mafia. La procura di Trani intanto sta indagando per omicidio colposo, il PM però la denuncia c'è un muro di gomma. Nel richiamo della prima pagina con cui il quotidiano del secolo XIX decide di aprire le sue notizie di oggi, c'è anche un legame con le dichiarazioni di Papa Francesco ieri sul lavoro. Ieri Papa Francesco è tornato a parlare di lavoro, l'ha definito sacro, ma ha avvertito le famiglie non devono diventare ostaggio del profitto, ed è ripartito allora anche il dibattito su queste flessibilità sempre più imposte dallo stato delle cose, dai cambiamenti in qualche modo, per cui abbiamo normalmente aperture domenicali, abbiamo orari sempre più dilatati, abbiamo visto fabbriche al lavoro a Ferragosto, e però ci chiediamo se poi questi nuovi ritmi a cui ci stiamo abituando siano effettivamente rispettosi non solo anche di una concezione, come dire, cristiana, quale può essere il richiamo del Papa, ma anche in generale dei nostri tempi di vita. La domanda durerà probabilmente ancora per molti anni. Questo comunque ci viene dalla notizia riportata come prima notizia del giorno sul secolo XIX. Non così su altri giornali, che decidono di dare sostanzialmente spazio a due eventi. L'uno riguarda la Grecia ancora e Berlino, perché ieri c'è stato il sospirato voto da parte del Parlamento tedesco per approvare il programma di aiuti alla Grecia. Berlino chiude il caso Grecia, il titolo infatti scelto dal Corriere della Sera, che spiega, ricorda in prima pagina, via libera del Parlamento tedesco al pacchetto di aiuti, 86 miliardi di euro, ma crescono i dissidenti nel Bundestag, nel Parlamento, e restano le incognite su Atene, le incognite che, come sappiamo, come abbiamo visto in queste settimane, riguardano soprattutto la capacità della Grecia di onorare il piano in assenza di un taglio del debito, insomma ridurre decisamente il debito, posizione che è stata tra l'altro sostenuta anche dal Fondo Monetario Internazionale. Non così appunto per quanto riguarda Berlino per ora, perché a novembre, riferiscono i quotidiani questa mattina, a novembre potrebbe aprirsi una trattativa proprio sulla riduzione del debito. L'altra notizia che sta sulle prime pagine di tutti i giornali, l'abbiamo sentita, l'avete sentita già, ricordata anche nel giornale radio che è andato in onda poco fa, è la tortura e la decapitazione del custode di Palmira, un archeologo 82enne siriano. Khaled Assad era il custode, ma custode è un termine che non rende giustizia alla persona, perché era uno studioso, soprattutto un appassionato di Palmira, sito archeologico tra i più belli del mondo. L'ISIS, i terroristi dell'ISIS lo hanno preso, lui non avrebbe confessato dove si trovavano i tesori del sito. Tra l'altro aveva già avuto modo di dichiarare che parte delle cose più preziose di Palmira erano state spostate altrove, non erano più materialmente sul sito, ed è stato poi decapitato in piazza. Scrive il Corriere della Sera appunto con una grande foto già in prima pagina: vorremmo che Assad, vero eroe del nostro tempo, fosse ricordato per sempre dall'ONU. Lo stesso titolo, la stessa notizia più o meno sulla stampa: Siria, l'ultimo orrore dell'ISIS, decapitato il custode di Palmira. E poi il quotidiano torinese lega anche il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella all'apertura del meeting di Rimini, che ha parlato di terrorismo come portatore di germi da terza guerra mondiale. La notizia della tortura e della decapitazione di Khaled Azad occupa quasi tutta la prima pagina della stampa, con una grande foto e poi il richiamo, cioè i vari richiami dei servizi e delle analisi che stanno appunto all'interno del quotidiano. La Repubblica ha una diversa scelta che riguarda invece un ultimo tassello di attuazione del Jobs Act, cioè la riforma del lavoro, il complesso di norme che sono state varate in virtù della legge delega appunto sul Jobs Act, sono state varate quasi completamente. C'è una tappa però importante sulla rappresentanza, cioè il posto e il ruolo che devono avere i sindacati nelle trattative. Scioperi e contratti, piano del governo per i sindacati. Questo è il titolo più importante questa mattina di Repubblica. Si ricorda già dalla prima pagina: astensione dal lavoro solo con il 30% dei consensi. E poi la notizia, naturalmente legata alle questioni sindacali, alle questioni della rappresentanza, serve anche per ricordare la denuncia del ministro Martina dopo la morte della Bracciante: denunciate il caporalato. Ma ne parleremo, come avete sentito, anche nel corso di Spunti di Vista dopo questa rassegna stampa. Per quanto riguarda invece queste ipotesi, perché tali vengono presentate da Repubblica questa mattina sulla rappresentanza, vi do qualche indicazione. Il lavoro di Paolo Griseri è molto articolato sulle pagine 2 e 3 del quotidiano. Diciamo che sostanzialmente si pensa a uno sbarramento in termini di iscritti: per poter partecipare a una trattativa bisognerà avere almeno il 5% degli iscritti, servirà una soglia minima anche per proclamare uno sciopero o per firmare un accordo, e poi i contratti nazionali che saranno meno rigidi e contribuiranno solo in parte a fissare la retribuzione. Ecco, su questo punto poi va detto, lo stiamo ricordando anche in questi giorni sul Sole 24 Ore, c'è già una forte deregolamentazione in favore di quelli che si chiamano contratti integrativi di secondo livello, che con il Jobs Act, appunto con la riforma del lavoro, hanno poteri di intervento maggiore. Anche oggi, ad esempio, raccontiamo nelle pagine Imprese e Territori che come alcuni contratti integrativi abbiano stabilito particolari incentivi o condizioni appunto premiali per i dipendenti, con una maggiore flessibilità, con una maggiore agilità rispetto a quanto era consentito prima della riforma del lavoro. Vedremo, perché tutto questo piano appunto del governo è per ora soltanto un'ipotesi. Ci si prepara a rimettere mano alle regole della contrattazione. Bisogna vedere poi se le imprese e i sindacati troveranno sul punto anche una linea comune. Naturalmente Repubblica in queste pagine ci ricorda anche l'inchiesta che vi segnalavo ieri mattina della emorragia di iscritti alla CGIL, che replica al quotidiano dicendo il calo è in questo momento del 2%. I conti si fanno alla fine, riferisce Matteo Pucciarelli come replica della CGIL alla denuncia ieri dell'assegnazione ieri di Repubblica, che appunto parlava di una emorragia di iscritti per il sindacato. È la risposta della CGIL a Repubblica, che citando un documento interno rilevava come ad oggi manchino all'appello oltre 700.000 tessere rispetto all'anno scorso, ma appunto la Confederazione dice la differenza in negativo è per ora pari solo al 2,17%, e comunque la tesi appunto di replica del sindacato è: c'è tutto il tempo entro fine anno per recuperare, per non avere una particolare emorragia. Questioni di lavoro molto delicate anche per quanto riguarda l'attuazione della riforma della scuola. Mi sembra doveroso partire da Repubblica, anche se tutti i giornali oggi riferiscono Di queste proteste, di queste difficoltà nel piano di assunzioni degli insegnanti precari, previsto appunto come uno dei capisaldi della riforma della scuola, su Repubblica una pagina anche oggi. Perché parto da Repubblica? Perché proprio dalle lettere a Repubblica sono partite le proteste degli insegnanti che hanno segnalato le difficoltà nel dover accettare, in forza di questa riforma, degli spostamenti anche di molti chilometri da sud a nord, ad esempio, per poter avere il posto. Scuola, mancano 20.000 assunzioni, ci spiega Corrado Zunino questa mattina su Repubblica. Sono insufficienti gli insegnanti di sostegno e quelli di matematica, soprattutto alle medie. Non ci sono posti alle materne. Il ministero annuncia che il prossimo concorso si allargherà a 80.000 candidati e poi spiega sempre la titolazione in questa pagina di Repubblica: le graduatorie dei precari restano aperte. Allora veniamo a questo punto che è un po' delicato. Il Messaggero, quotidiano romano, ha un titolo principale che è proprio dedicato alla scuola. Un anno per trasferire i prof. Il sì del governo dopo le proteste, supplenze vicino a casa, rinviando l'entrata in ruolo. E poi sono in arrivo 6.000 nuovi segretari o bidelli, sono gli ex dipendenti delle province abolite. Qui non c'entra la riforma della scuola, bensì, come sappiamo, la lunga abolizione, il lungo percorso di abolizione delle province, con la ricollocazione appunto dei dipendenti delle province in altre mansioni, una delle quali è appunto quella del personale scolastico. Ma tornando invece al titolo principale appunto di questa sorta di moratoria nei trasferimenti per quanto riguarda gli insegnanti precari, il Messaggero ci segnala già in prima pagina che c'è questo anno di tregua. Sarà possibile accettare una supplenza vicino casa nell'anno scolastico 2015-2016 senza per questo perdere il ruolo. A tendere una mano ai docenti è stata la ministra Stefania Giannini che, in merito alle supplenze sull'organico di fatto, ha chiesto espressamente agli uffici scolastici territoriali di effettuare le nomine entro l'8 settembre. In arrivo intanto, ricorda già il richiamo della prima pagina, 6.000 nuovi segretari o bidelli. Nelle pagine 2 e 3 del quotidiano romano, del Messaggero, la spiegazione in dettaglio di questa di questo intervento del ministro che consente una sorta di anno cuscinetto per quanto riguarda questo obbligo di trasferimento. E poi nella pagina 3 del quotidiano, lo squilibrio della scuola italiana, gli insegnanti al sud e gli alunni al nord. Era già emerso, come sapete, sui quotidiani in questi giorni. C'è una necessità maggiore di insegnanti per appunto presenza di scuole e di alunni nella parte nord del paese, ma una disponibilità di insegnanti maggiore invece nelle aree meridionali. Da qui poi appunto i timori di spostamenti anche molto pesanti per chi vive magari nel sud del paese, si deve, dovrebbe trasferire a nord per accettare l'assunzione, anche perché, e sono ripartite le abituali polemiche, anche perché i nostri insegnanti notoriamente non sono come dire, tra i meglio pagati dell'Unione Europea, ma questo naturalmente ci aprirebbe ulteriori polemiche. Il Messaggero ricorda che c'è anche una proposta per diversificare i salari. Lo stipendio netto di un insegnante dopo 5 anni di servizio è di 1.350 euro, ci ricorda il Messaggero, ma calcolando il costo della vita bisogna considerare che a Milano questa cifra vale il 32% in meno che a Ragusa. Questo è quello che ci ricorda il Messaggero sullo stato della questione degli insegnanti nelle regioni. C'è anche una cartina che ci mostra dove il numero dei docenti è più sbilanciato rispetto alla disponibilità appunto degli alunni. Sono stati 7.000 docenti precari del sud che un anno fa hanno offerto però la disponibilità a trasferirsi in una provincia del nord per lavorare. Sempre su questioni, diciamo, di lavoro, ma che si trascinano un po' dalla giornata di ieri, ancora le vicende sulle nomine dei musei con l'ingresso degli stranieri, ma di tutto questo parleremo tra pochissimi minuti, perché adesso ci fermiamo qualche istante per la pubblicità. in primo piano. E buona giornata ancora da Mauro Meazza, bentornati alla nostra rassegna stampa. Vi dicevo che stiamo per che sono tornate sui giornali delle dichiarazioni, delle polemiche appunto sulle nomine dei direttori anche stranieri al vertice dei nostri più importanti musei. Allora partiamo dalla Stampa, perché la Stampa già dalla prima pagina ci segnala un'intervista al ministro Franceschini, intervista dopo le nomine e le polemiche, già così la presenta. Il virgolettato delle dichiarazioni del ministro: perché ho voluto direttori stranieri nei nostri musei? Franceschini dice: sono tutti europei, poi la sfida è nel mondo globale. Andiamo direttamente all'intervista nelle pagine interne, è a pagina 9 del quotidiano torinese, l'intervista che viene nella quale Rocco Moliterni chiede al ministro: ha ricevuto più complimenti o più critiche? Lui dice: beh, le critiche arrivano in pubblico, i complimenti in privato. È accusato di aver consegnato i musei italiani in mano agli stranieri, cosa risponde? Ecco, per prima cosa vorrei ricordare che sono stati nominati cittadini europei. Ci riempiamo la bocca di Europa tutti i giorni, poi chiamiamo stranieri gli europei, che tra l'altro, in base a norme comunitarie, hanno il diritto di partecipare a un concorso come questo. Dirò di più: in futuro vorrei avere degli stranieri veri, cioè dei cittadini extracomunitari. È così che si fa in un mondo globale, si sceglie in base al talento e non alle nazioni di residenza. Un punto che viene sollevato al ministro è quello della effettiva autonomia che poi questi direttori stranieri o italiani che siano avranno nel gestire i grandi musei italiani. Con i direttori, viene chiesto al ministro Franceschini, l'autonomia gestionale dei musei sarà garantita oppure ci sono ancora ostacoli? Risponde il ministro: tra le accuse che ho letto c'è stata quella che i direttori sarebbero solo l'inizio, ma non è vero. Per nominare i direttori e dare autonomia ai musei abbiamo approvato una legge un anno fa che ci ha consentito di dare una grande autonomia ai musei. Ogni museo avrà autonomia statutaria, contabile, gestionale, un consiglio di amministrazione e un comitato scientifico. Il direttore è l'ultima cosa che abbiamo fatto. Gli viene anche chiesto come sono avvenute le procedure di selezione. Qui appunto una delle polemiche era che c'era stato un colloquio orale di 15 minuti circa. Dice il ministro: ma qui non era nemmeno previsto l'orale, c'era il direttore della National Gallery, il direttore archeologico di Berlino, hanno selezionato 200 persone da 1200 curriculum, alla fine hanno pensato di incontrare i candidati gratis per amore dell'arte, non si sono mica messi a chiedere ai candidati se sapevano chi era Giotto, semplicemente hanno ascoltato i progetti che si intendevano sviluppare per i singoli musei. Insomma, già il curriculum, come dire, faceva testo della loro capacità gestionale dei musei. Qualcuno ha rifiutato perché, senza fare nomi, e la risposta di Franceschini, posso dire che pur avendo noi offerto il massimo della retribuzione per un dirigente dello Stato, 140.000 euro l'anno per la prima fascia, 78.000 euro l'anno per la seconda, siamo lontani anni luce da quello che prende il direttore di un grande museo nel mondo. Questa mi sembra una indicazione da non sottovalutare, considerando appunto la quantità e la qualità del nostro patrimonio artistico, il patrimonio artistico italiano. È evidente che se siamo così fuori linea, come dice il ministro, non abbiamo probabilmente investito adeguatamente su questa risorsa. L'intervista al ministro, lo ricordo, è sulla Stampa, su tutti i giornali si riprende, si ritorna su questa notizia. Ad esempio lo fa il Corriere della Sera con un articolo nelle pagine interne di Federico Fubini, in cui ci viene ricordato che ad esempio gli Uffizi incassano sugli ingressi la metà di quello che incassa il Museo Metropolitan di New York. Dice Fubini: permetterete una domanda volgare, nella patria del più grande patrimonio artistico dell'umanità 56 centesimi a testa sono un valore inestimabile? Questo è l'aggettivo che di solito qualifica la Primavera di Botticelli agli Uffizi o la cena in Emmaus di Caravaggio alla Pinacoteca di Brera. 56 centesimi sono i ricavi nell'anno 2013 dell'intero sistema italiano di musei, siti archeologici, biblioteche o archivi, suddivisi per ciascuno dei 60 milioni di abitanti della penisola. Fubini dice: è una stima volgare la mia, l'arte è sicuramente ben altro, eppure in un paese assetato di posti di lavoro la realtà è questa. Risulta che nel 2013 l'intera rete dei musei italiani abbia fatturato 380 milioni di euro tra biglietti, libri, guide e audioguide e anche sponsorizzazioni ed eventi, fanno 56 centesimi per ciascun residente in Italia. Insomma, la provocazione di Fubini, è chiaro che non si può dare un valore monetario a opere d'arte di portata mondiale, ma la provocazione di Fubini è il ritorno per noi italiani, per l'Italia, da parte del nostro patrimonio artistico è molto basso, appunto 56 centesimi a testa in un anno, e questo viene ricordato appunto sul Corriere della Sera in questo dossier che rientra sulla questione delle nomine. Cambierei decisamente argomento per passare al Sole 24 Ore e venire alle questioni appunto greche. Il primo titolo infatti per noi oggi è proprio quello dell'approvazione del cosiddetto piano Salva Grecia. Berlino approva il Salva Grecia, Merkel vince sui falchi della CDU e della CSU, dal fondo di salvataggio i primi 23 miliardi ad Atene. Si temevano molto i dissidenti rispetto alle indicazioni di Angela Merkel, in effetti poi sono stati meno di quello che si temeva, meno di quello che la stampa, specialmente la stampa scandalistica tedesca, aveva sostenuto. E poi le borse che non sono andate bene ieri. Shanghai prima è crollata, poi ha recuperato. Ieri abbiamo parlato proprio in questa rassegna del momento di crisi per la borsa cinese, ma questo andamento si è poi riflettuto sugli altri mercati, si è alzata la tensione sui listini europei e sugli Stati Uniti. Borsa in rosso sul caso Cina è la sintesi oggi sul Sole 24 Ore. Milano ieri ha chiuso sotto di 1,77 punti e Francoforte a meno 2,14. Qui il voto appunto del Parlamento non c'entra granché. Dal Sole 24 Ore un'altra intervista a un altro ministro, questa volta parliamo di Del Rio, perché Giorgio Santilli ha intervistato il ministro appunto delle infrastrutture, e il ministro delle infrastrutture dice una serie di cose parecchio importanti al collega Santilli, perché tra l'altro segnala che ci sono 5-6 miliardi che si possono avere dalla UE come flessibilità, insomma come possibilità di sforare, di non stare nella rigidità dei parametri, per destinarli agli investimenti. E poi un'altra dichiarazione molto importante sulla privatizzazione della rete FS. A proposito di ferrovie, chiede Santilli al ministro, la privatizzazione è slittata al 2016, ci sono diverse posizioni all'interno del governo. Del Rio diplomaticamente replica: c'è un confronto in corso sulle diverse opzioni. Conferma la sua posizione contraria a una quotazione della holding FS in blocco. Confermo, risponde Del Rio, la posizione che ho sempre tenuto dall'inizio di questo confronto. Per me non deve essere privatizzata la rete ferroviaria. Dobbiamo pensare a uno sviluppo di lungo periodo del trasporto, creare campioni nazionali nel servizio di trasporto, meglio se la rete resta pubblica. Questa la risposta del ministro Del Rio, Graziano Del Rio, a Giorgio Santilli oggi sul Sole 24 Ore. E poi un'ultima cosa che vi segnalo da questa intervista che trovate a pagina 8 del Sole 24 Ore. Un suo cavallo di battaglia, è la domanda di Santilli, è la riconferma del credito d'imposta del 50% e del 65% per i lavori di recupero in casa e per l'efficientamento energetico. Conferma l'impegno a mantenerlo per il prossimo anno con la legge di stabilità, insomma verranno confermati questi sconti fiscali. dice il ministro, confermo il mio impegno. Dobbiamo far ripartire l'edilizia privata, non solo i lavori pubblici, perché l'edilizia è stato il settore più penalizzato dalla crisi. I crediti d'imposta hanno funzionato benissimo, hanno dato anche gettito fiscale, vantaggioso per lo Stato. Sarebbe sbagliato interromperli ora. Queste le dichiarazioni, alcune delle dichiarazioni che il ministro Graziano Del Rio ha rilasciato al Sole 24 Ore, che trovate appunto sul Sole 24 Ore di oggi. Sempre sul Sole 24 Ore, in attesa di interromperci per le informazioni sulla viabilità, vi vorrei segnalare una importante decisione della Cassazione, anzi in realtà le decisioni sarebbero due, che riguarda la lista Falciani o Falciani, come preferite. La lista Falciani è quella di questo ex dipendente appunto di una importante banca che ha trafugato dalla Svizzera una serie di file di nomi con le posizioni e le quantità anche di soldi portati in questa banca, spesso in violazione delle norme fiscali di migliaia e migliaia di cittadini, non solo italiani. C'è stato un lungo dibattito sulla utilizzabilità o meno di questi file che sono stati trafugati, quindi diciamo che l'origine dell'innesco dell'accertamento della contestazione fiscale deriva poi da un reato, e con due sentenze che sono state depositate ieri, due sentenze gemelle di Cassazione, ci riferisce Alessandro Galimberti oggi sul Sole 24 Ore, la Cassazione ha detto che queste liste si possono utilizzare. Quanti erano in queste liste? Per chi non se lo ricordasse, non fosse appassionato di questa vicenda, c'erano i nomi di 7.499 italiani che, come ricorda appunto Alessandro Galimberti, sono stati incastrati dal trafugamento dei dati operati dall'ex dipendente della sede di Ginevra della banca HSBC. Allora, a questo punto, quindi, i nomi delle persone che erano coinvolte nella lista Falciani sono pienamente utilizzabili dal fisco per le sue contestazioni. Naturalmente bisogna considerare che queste posizioni potrebbero essere state sanate con gli scudi fiscali degli anni passati, potrebbero essere sanate in questo periodo con quella che si chiama voluntary disclosure, cioè il rientro dei capitali, il ritorno in chiaro, in regola da parte di chi detiene appunto capitali non dichiarati al fisco. Quindi poi bisognerà vedere se questa utilizzabilità piena diventerà anche un'occasione di recupero di materiale per l'erario. Un'ultima notizia prima di fermarci per la viabilità, anzi due, le prelevo dalle pagine di Finanza e Mercati oggi sul Sole 24 Ore. Da una parte un confortante ritorno alle offerte pubbliche d'acquisto, 9 miliardi in arrivo a Piazza Affari, riferiamo oggi, ne spiega Laura Galvagni, al via in settembre gli acquisti di tre big del listino, Pirelli, Italcementi e World Duty Free, e poi a seguire toccherà a Seat pagine gialle. L'ultima cosa che vi segnalo prima di fermarci è collegata proprio alla viabilità, perché c'è un'ipotesi di una Ferrari completamente elettrica. Lo spiega Ceo Condina sulle pagine di Finanza oggi sul Sole 24 Ore. Come sapete, l'Aston Martin ha già presentato un modello elettrico, e anche per la Ferrari c'è una ipotesi allo studio di realizzare una vettura interamente elettrica. Già c'è un'auto ibrida in catalogo, un'auto ibrida peraltro da 963 cavalli, è rapida certo, ma non tutta elettrica come invece si pensa di realizzare, si sta ragionando di realizzare a Maranello. Una sfida super lusso tra big, lo spieghiamo oggi su le pagine di Finanza del Sole 24 Ore. E allora a questo punto, dalla auto elettrica della Ferrari, traffico. In primo piano. E ancora una buona giornata da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra ultima parte delle segnalazioni che vi diamo questa mattina per quanto riguarda i quotidiani in edicola. Ci sono alcune notizie che occhieggiano, che trovano qualche spazio qua e là sui quotidiani in prima pagina, non su tutti i quotidiani. Ad esempio, una vicenda che viene rilanciata da Libero e anche dal giornale in prima pagina riguarda il Black Bloc, che fu uno dei protagonisti degli scontri avvenuti a Milano il 1 maggio, lo ricorderete. Era poi seguita una mobilitazione della cittadinanza per protestare, per ripulire rispetto ai danni che questi avevano fatto nella città. Ebbene, la notizia è che il Black Bloc che pestò la gente, probabilmente molti di voi ricordano il filmato in cui si vedeva questo signore che si accaniva contro un agente a terra, già Libero. Milano 1 maggio, spiega Renato Besana su Libero questa mattina, cominciando proprio dalla pagina 1, le immagini del giovane No Expo che s'accanisce a bastonate contro un inerme vicequestore erano apparse sugli schermi televisivi di mezzo mondo. Una ventina di giorni dopo gli scontri, Marco Ventura, che gravita negli ambienti dell'antagonismo, area anarchica, finisce a San Vittore con l'accusa di lesioni volontarie e resistenza pubblico ufficiale. Ampio risalto alla notizia, reazioni unanime ai piani alti, lo Stato c'è. Ieri il bastonatore, e aggiungiamo presunto per non beccarci querele, è uscito per decorrenza dei termini, perché i reati che gli sono stati ascritti non consentono che la custodia cautelare, cioè la galera prima del processo, possa superare i 3 mesi. Resta l'obbligo di firma dai carabinieri 3 volte la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, weekend libero. Codici alla mano, la decisione, dice Renato Besana sul Libero, non fa una grinza, resta però lo sconforto. Non c'è uno straccio di sentenza, magari da criticare aspramente, il processo, se mai si farà, è rimandato a un dopodomani remoto e il nostro sistema giudiziario è la prima vittima della propria esasperante lentezza. Si dirà, gli arretrati da smaltire si aggiungono alle questioni urgenti, manca il personale, ci sono i turni di ferie, eppure in un caso come questo di indiscutibile evidenza in aula si poteva arrivare in tempi ragionevoli di 1 o 2 mesi al massimo. Con un verdetto di condanna la pena inflitta sarebbe probabilmente stata uguale o di poco superiore ai 3 mesi già trascorsi in cella, ma avrebbe testimoniato che la violenza non è tollerata. Così appunto viene ripresa questa notizia, che poi, vi dicevo, trovate anche su altri giornali, trovate su anche in prima pagina su altri giornali. C'è poi una questione economica, ma che in realtà riguarda la vita di molti di noi, che sta un po' dovunque con maggiore o minore evidenza. Sto per parlarvi di buoni pasto, perché che succede? È cambiata da luglio la normativa, è stato aumentato il valore, ma c'è un incentivo per del singolo buono pasto, è stato aumentato il valore del singolo buono pasto, ma c'è un incentivo a utilizzare quello elettronico. Ebbene, che cosa comporta per la vita di tutti noi, per la nostra vita quotidiana, di noi che utilizziamo il buonipasto, tutto questo cambiamento? Che con il ticket elettronico non si potrà ad esempio più fare la spesa al supermercato, come ricorda il Messaggero, ma la vicenda è trattata con dettaglio anche da molti altri giornali quest'oggi. Sale l'esenzione fiscale, riassume appunto Sonia Ricci sul Messaggero di oggi, ma non si potranno usare cumulativamente i buoni pasto e fuori dall'orario di lavoro. In effetti la normativa prevederebbe il condizionale è obbligatorio, che si può utilizzare un buono pasto al giorno, ma come sappiamo poi nella prassi è uso anche comune utilizzare più di un buono pasto insieme per, se fatto in questi anni, pagare la spesa, ad esempio a volte anche pagare appunto proprio pasti che magari non vengono consumati nelle giornate lavorative ma in altre giornate. Ecco, tutto questo con il passaggio al ticket elettronico, con la digitalizzazione, bisognerà dimenticarselo, scrive appunto Sonia Ricci, si dovrà dire addio ai buoni pasto usati dopo l'orario di ufficio per fare la spesa al supermercato, per pagare cene in pizzeria. A norma di legge i buoni non possono essere cumulabili, cedibili, convertibili in denaro dunque, non si può ricevere il resto e vanno utilizzati nelle ore lavorative per un massimo di un ticket al giorno. Norme, lo ripetiamo, che non sono nuove. Quello che è nuovo è il valore del buono pasto e il suo aspetto, non più cartaceo ma digitale. Questo però fa sì che il suo impiego, appunto, fuori dall'orario di lavoro e accumulando più di un buono pasto alla volta, diventi di fatto molto più difficile. Un'altra notizia, diciamo così, che riguarda i consumi, la trovo invece sul Corriere della Sera. Addio ai vecchi elenchi telefonici, così Telecom scoraggia i clienti. Non so quanti di voi ancora ricevano gli elenchi telefonici. Da ottobre però, ci scrive Corina De Cesare sul Corriere della Sera, il costo passa da 1,17 euro a 2,50 euro, per ogni disdetta verrà piantato un albero. Ci sono 20 milioni di italiani che ancora lo ricevono. Qualcuno li ha anche messi all'asta su eBay, gli elenchi telefonici, qualcun altro si è inventato il modo per trasformarli in palline di Natale fai da te. Insomma, oramai l'elenco telefonico è decisamente un oggetto soppiantato dalla disponibilità di analoghe informazioni in rete in formato digitale. Allora Telecom ha deciso un aumento che serve anche a disincentivare appunto questo tipo di richiesta. Ce ne riferisce il Corriere della Sera, ripeto, con questo articolo di Corinna De Cesare. Ci sarebbe poi un'altra notizia molto molto richiamata sui giornali, la do con un certo riserbo, un certo pudore. Sì, negli Stati Uniti al Viagra delle donne, immagino che di questo poi si parlerà a lungo. C'è stata l'approvazione del Food and Drug Administration per la pillola che aumenta il desiderio femminile. Ecco, però chiariscono i giornali già questa mattina che non si tratta di una pillola che agisce come l'analogo Viagra maschile, cioè una sorta di effetto immediato, ma è invece una terapia che va protratta per più sere e poi in qualche modo stimola il desiderio, la libido femminile. Sta un po' su tutti i giornali, con maggiore o minore evidenza, compresa anche di diversi commenti sul fatto che questo sia un vantaggio o meno. Vedremo come poi verrà ripresa questa notizia. E infine un pettegolezzo, mi permetto in chiusura. Intanto è ritornata Irene Zerbini, forse ha capito che sto per dare una di quelle notizie. Vuoi spettacolare con me? Ma vorrei sì, sottoporti questa notizia. Devi sapere che in America esisteva questo sito per diciamo amori clandestini, loro sì, lo chiamano pudicamente affair, potremmo tradurre appunto con amante, e è stato violato dagli hacker e quindi adesso ci sono un bel po' di utilizzatori di questo sito che tremano, immagino, e utilizzatrici io penso che hanno un po' di preoccupazione appunto per l'utilizzo di questi dati che sono stati trafugati. Sì, hai veramente gettato mezza Italia, noi inclusi, nel panico. Adesso correremo. Precisiamo, guarda, allora. Ma dove l'hai trovata questa notizia? Ma guarda, sta un po' dappertutto, insieme al Viagra per le donne, di cui riferivo poco fa. No, però vorrei rassicurarti, nella prima parte della segna stampa ho dato notizie anche riguardanti Berlino, la Grecia e tutte cose molto importanti e molto serie. Però anche la vita è fatta anche del Viagra delle donne. Il piacere femminile è una cosa molto seria, cioè non è che la metterei. E da 32 milioni di adulteri che si ritrovano oramai alla gogna degli hacker. Il sito si chiama Ashley Madison e il suo motto è: la vita è breve, concediti un'avventura. Traduciamo un po' liberamente dall'inglese. Sì, 37 milioni di iscritti, è attivo in 46 paesi e hanno hackerato, cioè hanno sottratto i dati per 32 milioni di profili. Non c'è più sicurezza, carissimo Mauro. Non c'è più sicurezza neanche nei siti di appuntamenti, neanche nei siti per gli amori clandestini. E con questo tu ti congedi dalla rassegna stampa per il mese di agosto? Direi che per il momento sì, almeno per questa settimana. Poi vedremo se nelle prossime, nonostante questa chiusura, come dire, in tono più ridanciano e leggero, la direzione vorrà confermarmi. Io ringrazio naturalmente Peter Bescapè. Metteremo una buona parola, vero Peter? Sì, per la pazienza, nonostante, come come sapete Peter ed io siamo divisi dal tifo calcistico, perché lui purtroppo tifa Milan e questo mi dispiace parecchio. Grazie a tutti. Irene, ti lascio il microfono. Mauro Meazza, caporedattore centrale del Sole 24 Ore, grazie naturalmente per questa rassegna stampa. Noi tra poco di cosa parleremo? Del costo medio da sostenere solo per gli acquisti di libri dalle famiglie italiane. Allora, l'Istituto Alberghiero si prende 387 euro l'anno, poi cambia leggermente a seconda dell'anno in cui è iscritto il ragazzo o la ragazza. Liceo scientifico 420 euro, l'Istituto Indirizzo Elettrico 302 euro, ma tanti altri esempi potreste farceli voi. Vi stiamo chiedendo, avete conservato i libri che vi hanno visto, speriamo, non si sa poi, sudare, che utilizzavate durante le scuole, o siete corsi, siamo corsi a rivenderli per raggranellare qualche euro in più, visto i costi del corredo scolastico che ogni anno aumenta. Parleremo proprio di questo e affronteremo anche il tema del caporalato, soprattutto in questi giorni, questo fenomeno che è in continua evoluzione, e ci chiederemo quale potrebbe essere uno strumento per arginarlo, visto che la repressione e il controllo a volte cozza con la paura, anzi nella maggior parte dei casi con il muro di gomma di coloro che sono costretti a lavorare a pochi euro l'ora, cedendo quasi tutto al caporale, ma non hanno alternativa. È un tema che affronteremo dalle 9 alle 10 proprio qui in Spunti di Vista. Se volete partecipare, 800 24 00 24, questo è il numero di telefono. Un ultimo numero prima di dare la linea al notiziario: 349 238 6666, è il numero degli SMS, ora GR.